Storie de Noaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Cari ascoltatori e ascoltatrici, una buona serata. Buonasera quindi da Gesi e da Antonio. Allora Antonio, siamo quasi a Santa Lucia. Qui stiamo correndo velocemente verso il termine dell'anno. Sai che Santa Lucia mi portava i regalini? Esatto. Invece adesso non me li porta più nessuno i regalini. Se voglio regalini devo farmeli da sola. Questo è lo scopo, purtroppo. Vabbè, allora andiamo avanti con il nostro programma. E allora buonasera e benvenuto alle amiche e gli amici su Blu Radio Veneto. Vi ricordiamo il nostro indirizzo internet www.bluradioveneto.it. Per consigli, proposte e suggerimenti il nostro numero di telefono è il 346 23 20 033. Naturalmente abbiamo la possibilità di ascolto in streaming oppure di effettuare il download, cioè scaricare su PC i nostri incontri. Dando un saluto naturalmente cordiale al nostro regista, preannunciamo che il nostro ospite questa sera sarà virtuale, la signora Franca Turchetto. Così la nostra Franchina anche stasera ci farà compagnia. Allora un ciao al nostro angelo custode Eddie. E adesso incominciamo subito con la prima canzone. Questa volta è una canzone sempre veneziana, perché si parla di Venezia, ed è cantata da un cantante veneziano. Me l'hanno fatto conoscere da poco, perché non lo conoscevo. E Lucio Bisutto canta Venezia no, ieri e oggi. Ascoltiamo. Mamma e papà 50 anni fa, sposi a Venezia, arrivarono e per ricordo comprarono una gondola col cario. E nel ricordo di un'altra età che accompagnò la sua gioventù, oggi purtroppo non suona più la sua magica e cara canzone. Cambiato ormai, Venezia no, non cambia mai. E se a Venezia vai, come quei tempi di Goldoni la vedrai. Cambiano le città, Venezia no, non cambia mai. Guardi i millesimi di l'hanno dipinta come tu la vedi qui. Non può. Tu cambiato ormai. Venezia no, non cambia mai. E se a Venezia vai, come quei tempi di Goldoni la vedrai. Cambiano le città, Venezia no, non cambia mai. Guardi i millesimi di l'hanno dipinta come tu la vedi qui. Ecco, siamo tornati in studio e fra poco avremo al telefono la signora Franca Turchetto. Pronto? Pronto. Ah, oh, Franca, sì? Bentornata. Buonasera, grazie bentornata, a voi. Bentornata, Franca. Buonasera. Senti. Ormai sei di casa, vero? Sono di casa, meno male che ho una doppia possibilità. Una doppia casa, doppia sì. Possibilità. Certo, certo. Scappo certo. Via da qua, vengo là. Ecco, brava, brava. Allora, stasera di che cosa ci parlerai? Perché ormai siamo all'11 di dicembre. Sì. E quindi fra poco è Santa... Fra poco c'è Santa Lucia. Mm-hmm. Dunque, su Santa Lucia ci sono tante cosine da dire, più o meno veritiere, bugiardine, leggende, però ci sono, ecco. Dunque, Santa Lucia praticamente è una festa senza confini. Qui dalle nostre parti, diciamo nell'Alta Italia, si parte da Bergamo, sì. Si va in Sicilia, e si va a Siracusa, si passa per Napoli, insomma è ricordata insomma in abbastanza luoghi italiani e anche stranieri. Siracusa poi per la ricorrenza richiama diciamo migliaia di persone, perché prima ci sono dei preparativi, ci sono dei vesperi solenni nella cattedrale e poi tutti si radunano al famoso 13 dicembre, che è fra pochi giorni, vero? Beh, da noi, ad esempio, portano i regalini. Sì, da noi c'è questa usanza, è come fosse Gesù Bambino, Babbo Natale, sì. Allora, dimmi. Quando ero piccolina mi facevano credere che la sera prima di Santa Lucia passava lei col sì, carrettino e suonava il campanello. Sì, a me sembrava proprio di sentire il campanello. No, ma ci sono ancora bambini in queste zone, diciamo, d'Italia, che credono come noi, diciamo, nel Veneto, ecco, crediamo più a Gesù Bambino e alla Befana. Sì. Allora, praticamente in alcune parti d'Italia, praticamente a Siracusa, dove la solennità religiosa si festeggia in due date. Dunque a partire dalla mattina del 12 e poi fin al 20 dello stesso mese, perciò loro festeggiano una settimana. Come mai così tanto? Questo non lo so, praticamente ci sono tante delegazioni magari che vengono anche da fuori Italia e ci sarà un raduno insomma, come non so se voi sapete a Sant'Antonio, quando c'è il 13 giugno Sant'Antonio, ci sono anche delle comunità zingare, perché sono devote a Sant'Antonio. Addirittura? Sì. Insomma, torniamo alla nostra Santa alla nostra, ma la ricorrenza che ricorda questa santa siciliana si celebra con grande entusiasmo, soprattutto da parte dei più piccoli, come hai detto tu adesso. Sì. Anche in altre città italiane, in particolare a Bergamo. Nella giornata del 13 è tutta la provincia bergamasca. Ma pensa. Nei paesi più piccoli come Alenna, in Val Brembana, c'è ancora l'usanza di bruciare il falò nei campi il giorno della vigilia. Come la Befana? Sì. La cittadina di circa 600 abitanti e fino agli anni 30 la gente vi era molto affezionata. In questo paesino della Val Brembana, la sera del 12 dicembre, e torniamo al discorso tuo, i bambini prima di andare a letto preparavano sulla finestra la letterina, il fieno per l'asinello e un po' di arance per Santa Lucia. Poi via di corsa sotto le coperte, ansiosi, aspettando Lucia in carne e ossa. Cioè praticamente vestivano delle bambine con la tunichetta bianca e una coroncina in testa non so di che fogliame con delle candeline accese. No, io andavo a letto e no sapevo. Ma passa, l'aspettavano, capito? E allora sperando proprio che porti i doni tanto desiderati, anche se qualcuno insomma faceva il birichino come la profana, ecco. Ah, sì. L'indomani alle 10 c'era la Santa Messa per ringraziare la Santa per i regalini che ha portato. Dunque, le richieste di bimbi venivano fatte attraverso letterine e depositate poi nella chiesa della Madonna dello Spasimo, che non so dove si trova. Ah. Nella centralissima via, sempre là, allora Siracusa, qua in Val Brembana probabilmente, dove si trova la statua che raffigura la martire di Siracusa. Ah. In Lombardia invece la santa viene festeggiata anche dai bambini di Cremona, Brescia, Lodi e Mantova. Sì, sì, altro e che... per la ricorrenza nelle piazze principali vengono allestite le famose bancarelle, che lì c'è tutta la grazia di Dio, di dolci, dolcetti, dolciumi, giochini. Ma quando ero ragazzina io, no. Ma ciò sai, erano tempi più tristi. No, perché c'è stato, guarda Jerry, c'è stato un periodo che tutte le festività così paesane, religiose, un periodo che furono soppresse. Forse per i periodi bellici. Sì, penso anch'io. Forse per non influire troppo sulla miseria che avevano le famiglie per la fame, non lo so. Venivano soppresse, dopo ripristinate. Dunque, torniamo a Siracusa. Allora, Siracusa, grandi festeggiamenti. Scusa Franca, tu mi parlavi della Val Brembate, no? È quella a Bergamo, no? Sì, a Bergamo. Sì, dove è successo... Sì, sì, il discorso... Allora, a Siracusa invece la festa viene presieduta dalla deputazione della Cappella di Santa Lucia. Perciò io l'ho vista questa cerimonia, c'è proprio in questa cattedrale una cappella, un altarino diciamo, sì, dove c'è la statua della Santa, tutta diciamo illuminata da ceri, candele, come Madonna della Salute, ecco. Mm-hmm. E c'è questa congregazione, questa associazione di devoti che con canti particolari verso la Santa, con delle implorazioni di miracolose, non lo so insomma. E allora queste persone qua, questa deputazione, diciamo, richiama migliaia di persone di varie province della nostra regione e arrivano persino dagli Stati Uniti e dal Sud America. Penso un po'. Dove sono immigrati i nostri concittadini. Sì. Mentre un gruppo, aggiunge il presidente di questa deputazione, arriva da un quartiere di Buenos Aires, il Boca. Non so dove, si trova uno storico insediamento di siracusani. Ma sai, ci sono dei clan degli italiani. Sì. La festa, diciamo, lì a Siracusa comincia la mattina del 12 dicembre con la traslazione del simulacro argenteo della Santa. All'interno della cattedrale, dalla cappella in cui viene tenuta e conservata per tutto l'anno fino all'altar maggiore. Perciò, vedi, loro praticamente questa devozione forte per questa santa Siracusa, non capisco perché non viene data la mummia che abbiamo noi qua dal momento che non facciamo tutte queste cerimonie. Sì, appunto, ma non so perché a Buenos Aires... ma sai, è un fattore di orgoglio, penso, di avere proprio il corpo, perché non è che sia un osso, un femore, un braccio, è proprio tutta la mummia. Sarà una fonte di orgoglio, perché ci ho portato, che dopo spiegherò da dove arriva, qua a Venezia. Cosa dici Antonio tu? Ma sono cose sempre estremamente interessanti, dove si mescolano appunto fede, storia, storie, leggende, eccetera. Soldi. Anche naturalmente, poi c'è tutto un vissuto e un trascinato per i tempi e compagnia, insomma, ecco. Ecco, allora andiamo avanti. Dunque, soprattutto fanno questa festa, insomma, cioè viene tenuta questa cappella dove viene conservata per tutto l'anno fino a dopo la riportano là e rimane là. La sera vengono celebrati sempre in cattedrale i vespri solenni, a cui partecipano tutte le autorità civili e religiose, e al termine dei vesperi viene distribuita ai fedeli la cuccia. Che cos'è? E cos'è il dolce tipico siracusano? La cuccia. La cuccia, sì, non c'è nessun accento. cuccia. Non c'è traduzione, diciamo, in veneziano, insomma. No, la traduzione non è proprio cuccia. Cuccia. Dolce, e dopo ti spiego perché c'è questo dolce. Dolce tipico siracusano che viene preparato come la tradizione, come tradizione il giorno della festa della Santa. Il simulacro argenteo, cioè sta statua che porta fuori, viene portato a spalla da una sessantina di uomini. Mamma mia. Fino alla chiesa di Santa Lucia, al sepolcro dove si trova nella piazza intitolata in sua memoria. Durante il tragitto la statua fa sosta al Porto Grande, a Marina, per i siracusani, dove i marinai e i militari le dedicano gli onori suonando le sirene delle navi. Pensa un po'. Il 20 dicembre riprende la festa e la giornata tradizionalmente definita dai siracusani come l'ottava, perché il simulacro rispetto al tragitto di 7 giorni prima osserva diverse soste prima di giungere a Piazza al Duomo. Scusa Franca, c'è un proverbio che dice Santa Lucia la giornata più corta che ci sia. Ma no, perché la notte è più lunga? No, io non ci credo, penso, penso che sia il 21. No, no, ti sa forse perché? Perché praticamente il 13 dicembre le giornate cominciano un po' a allungarsi. Al 13? Non è il 21? No, il 13 dicembre, osservate bene, cominciano leggermente a allungarsi e da qua è proprio l'inizio della nuova luce che promette la primavera, diciamo. Ho capito. Perché c'ho fuori è dicembre, poi in gennaio andiamo verso primavera, non andiamo più verso l'oscurità, certo. Perché verso ottobre, novembre si scurisce, anche prima. Sì. Però, cioè, se ti vedi una tradizione che è un'evidenza mandata di antichi, perché una volta non c'era illuminazione, non c'era niente, le strade era scure, non c'era abitai come chiese adesso, c'era paesetti sparsi in qua e là. Praticamente la luce arrivava un po' prima, l'alba albeggiava, Prima, sì, sì, insomma, no, proprio più di tanti, cominciava a vedere prime stelle. Sì, sì, sì, ma bastavano quei 2 o 3 minuti prima, ecco, perché era già... Ecco, sì, sì. Perciò dice che il 13 dicembre succede questo discorso qua. Invece a Mantova dicono per Santa Lucia l'inverno si usa... Ecco, il freddo scruscia, perché Lucia, è freddo, sì. Guarda che mise tanti anni, di solito Santa Lucia, Santa Lucia Per Santa Lucia l'inverno si invia. Perché se gennaio che faceva freddo, perché a gennaio praticamente dovrei essere i giorni di Amerla. Alla fine del gennaio. Sì, a fine, ma voglio dire, dipende dopo secondo posizione anche dell'Italia, sì, dell'Italia, sì, delle regioni. Sì, sì. Diciamo Santa Lucia, il vento crucia, perché mi ricordo che c'era vento, che c'era piova, che c'era neve, caigo, giasso. Invece oggi non c'è niente. Non c'è niente. Cioè, stasera non c'è niente. Prevedono sia per domani che per dopodomani. Sì, sì, niente. Tutto. Allora, veniamo a questa cuccia, sto dolce. Vediamo sta cuccia, sto dolce. Allora, è una ricetta con il grano. Allora, che ti racconto in breve. Sì, sì. Questo dolce, così caro ai siracusani, che lo gustano durante i festeggiamenti dedicati alla patrona della loro città, nacque durante una carestia che colpì la città siciliana. Secondo una delle leggende più diffuse, nel porto di Siracusa apparvero improvvisamente alcune navi cariche di grano. La gente era così affamata che non aspettò di trasformare il grano in pane, ma lo fece semplicemente bollire previo ammollo e così poter cibarsene esattamente nel giorno di Santa Lucia. Ma guarda un po'. Ecco, per ringraziare la santa di essere riusciti a sfamarsi, ogni anno il popolo continua a fare questo dolce, forse adesso che esonterà fia del succaro. Penso proprio di sì, un po' di uova, un po' di qualcosa, sì, di aromi. Appunto, sì. Ecco, si chiama la cuccia. Bisogna che chieda ai miei amici siciliani se loro lo fanno. Si conosce qualcosa. Sì, appunto, fatto. Appunto. Ecco, questo è quanto... Riguarda la riguarda cuccia. Quel che può lei, no, la cuccia e anche i festeggiamenti, chi fa. Mi ricordo una volta che ho visto, che non so se Siracusa, Catania, dove che se so che gli ha fatto vedere una spiaggia, dove che di mattina, proprio il periodo questo qua di Santa Lucia o d'estate, mi non lo so, e non sarà adesso perché se è caldo, che c'è una raccolta di conchiglie. Addirittura le conchiglie? Le conchiglie, sì, ste conchiglie ne sei fatte come le nostre cape, diremmo, le piatte, fa conto, ti rappresenti i bottoni di madreperla? Sì, sì, sì, sì. Però sì. Io sei di un bianco... Lucido. Latticino, sì, bianco sì. È. Però torno, ha come una specie di vortice nero. Ma guarda. E sto vortice nero pare che sia proprio la pupilla e l'occhio. L'occhio del bianco dell'occhio. E ora io ste perle, ste conchiglie qua, gli lavora, gli lava, gli fa insomma il suo trattenimento, e gli fa coane, cioè è un lavoro di gioielleria, gli fa coane, braccialetti, pendenti, anei, in più gli fa dei spille, non so, come porta fortuna. Io regalo anche ai studenti o studentesse, diremo, che ha esami da fare, perché che porta fortuna quel giorno. Però la leggenda... E i maiocci di Santa Lucia. Le leggende di Santa Lucia, cioè che gli hanno levato gli occhi, gli hanno messi su un piattino, sembrerebbe più che leggenda, più che verità. No, questa è una raffigurazione che ha fatto i pittori del tempo, perché praticamente, siccome che leggende appunto racconta che sta fia che aveva do gran bei occhi, e che insomma sti occhi la danneggiava per non aver più altri occhi, solo i suoi occhi che si cavia cavalli via e ma insomma mi pare che sia una roba un fiale di qua, appunto, insomma, mi pare proprio di sì. Cioè, e adesso vi conto come che si arriva da Venezia. Aspetta allora, sì. Prima di raccontarla ci ascoltiamo una canzoncina. Va bene, ci ascoltiamo Mina con la canzone, con la canzone Nel fondo del mio cuore. Ah no, credo che fosse Nina d'amore, mi confondo. No. Va bene, a dopo. Sì, ciao. Nel fondo del mio cuore io tengo quel dolore che mi lascia il tuo addio. Nel fondo del mio cuore è morto quel poema che il nostro amore creò. Nel fondo del mio cuore mi manca la tua voce, il tempo la rubò. Mi mancano i capelli che nelle notti nostre io tanto carezzai. Nel fondo del mio cuore fa male il ti amo che tu dicevi a me, e saremo felici, non ti lascerò mai, sempre sarai il mio amore. Nel fondo del mio cuore conservo il fallimento che il tempo preparò per farmi poi morire ricordando che cos'eri per me. Eccoci di nuovo in studio, Franca. Sono qua. Sei pronta? Sì, sono pronta. Ecco, allora andiamo. Adesso veniamo a Venezia. Sì. Allora, Santa Lucia arriva a Venezia. Ah. Ma come che è arrivata? Mi adesso ve lo dico. Sta fantuina è amor martirizzata nel nero periodo di quel diavolasso dell'imperatore Diocleziano che la aveva con tutti i cristiani perché lui era un pagano. e a buttarli fuori a tutti. Infatti no? Lei era una cristiana sì. Proprio credente. Sì, sì, sì. E era una tosa bea, codocioni ceste, forse gli aveva rubato un spigolo di ceo. Ah. Spigocioni, baby. Sarà anche bionda? No, magari mora perché si è sì. Siciliana. Vedete, pensi che il suo nome, per esempio Lucia, è un nome greco. Addirittura? Sì. Ecco. E si scrive Lucia o Lucia, con la K. Ah, addirittura Lucia. Non so se è Lucia o Lucia. Sarà non che sei accenti. Forse Lucia, forse più ecco, musicale. Che sì. Dopo italianizza Lucia. Sì. Perciò sarà stato un fiantino ambrata di pei, non lo so. Bah. E che aveva anche al moroso. Ah, addirittura. Sì, un giovane di società, ma di religione pagana, stotoso, sì. Non era cristiano. Allora sta Lucia un giorno che accompagna sua mamma da Siracusa a Catania a pregare sulla tomba di Santa Agata, perché sua mamma già era devota a Santa Agata. E fin a pregare, insomma, domandando s'aiuto per sua mamma a guarigione. E ha detto, guarda, se ti fa guarire mia mamma, mi te prometto che resto vergine. Queste sono le parole sue di Lucia, sì, piccola, sì, no? Sì, sì. E finché io pregava su sta tomba, che viene in visione a sua sorte. C'è avuto una visione che si veniva in visione al suo martirio. Ma pensa. Ecco. E manda a monte al suo matrimonio e che dona tutte le sue sostanze perché era anche ricca ai poveri. Qualche spion dell'epoca, come che è adesso, la denuncia, l'accusa di essere cristiana e viene arrestata, giudicata da Pacasio, che se sta è l'avvocato di Chiavolta, non lo so, forse un inquisitore dell'epoca, e subisce violenza e per finire la trucida, la coppa. Pensa un po'. Adesso invece venimo a storia o leggenda. Dal suo corpo si ricava due fonti, cioè come che si arrivava qua a Venezia, siamo sempre qua. Sì. Allora, da una cronaca dei monasteri di un certo Leon Marsicano, che mi non so chi che è queste persone, del 1038, appunto cioè, bisogna fare ricerche approfondite. Una si ricavata da sta cronaca di sto monastero e un'altra invece si ricavata fuori dai croniche di un veneziano, un Andrea Dandolo, che c'era, fa conto, parente di Enrico Dandolo, quello che portava via i cavalli da Costantinopoli. Allora, il primo, il Leon Marsicano, dice che il generale bizantino Giorgio Maniace, non potendo più difendere Sicilia dagli arabi, perché ora c'era distruttori dei santi, i conalisti, che mi voleva distruggere tutte le robe sacre, io porta via e se che ritira, portando Cedrio al corpo di Lucia e lo porta a Costantinopoli. Ah, quindi Lucia è stata la anche a Costantinopoli. È il corpo, sì, il corpo, sì, certo. Andrea Dando, invece diremo dai cronache di sto Andrea, il dice che il suo avo, proprio il doge Enrico Dando, nel 1204, conquistando Costantinopoli, lo tiene il corpo della santa e si apporta a Venezia. Con la porta a Venezia, gli si fa delle domande. Dove si chiamettemo? In che cesa? Perché sto corpo qua, cosa si che fa qua? E decide che il posto dove che io metta sia sicuro dai pericoli e dai intemperie. Quella speranza che il cambiamento dell'aria, cioè da Costantinopoli che c'è il sole, a Venezia che c'è acqua salsa, che non so che desco è mumia. Adesso a tornare in giro fuori da questa storia. E che un suppion di aria non sia a causa di qualche malano. Cioè, può disfarsi. Così, tutti d'accordo, gli decide di metterla in parcheggio provvisoria sulla chiesa di San Giorgio. In isola, a San Giorgio. Ah, nell'isola di San Giorgio? Sì, chiaramente. Allora, cosa che succede? Che troverà un postesino, che troverà un altarino e metterà sotto qualche parte. E ogni anno, al 13 di dicembre, e Origi va a far visita, c'è il Doge, il Senato, tutti i componenti della Repubblica Serenissima, va in processione a onorare questa santa, San Giorgio. Però Titi mi domanderà, ma vai camminando? Che c'è tutto il capo di canale di acqua da passare. Andarai. Allora andava con le barche. Però succedeva che una processione su barche tutto il giorno, d'inverno, così 3 mesi, 4 di sera, è in cascuro. Ma è scuro, certo. Ecco, ora cosa hai fatto, sti stupidi di sti veneziani? E si era fatto un percorso illuminato con dei ludri. Cosa sono tutti i ludri? E ora che impiantare dei pai in acqua. Ah, ho capito. E il paio che c'era, diremmo, fuori dell'acqua, c'era tutto in pegoa, di pegoa, o di altro materiale che si usava che a volte, almeno non so, e hai che era da fuoco, perciò sti luci faceva come da torcia. Ho capito, quindi facevano luce? Eh sì, gli ha fatto do bei fiere, e ora quei barchi andava in processione, perché ciò. E questo non so quanti anni che si andava avanti, sto discorso, finché c'è stato un momento che ha deciso, ascolta, non li affermo più, perché forse andava anche a manco gente, perché c'ho onde, vento, già soggeo. E gli ha detto, niente, cosa si affermo? Troveremo che un altro posto. E difatti nel 1343 gli apporta su una chiesa, diremmo, su un'altra parte di Venezia, dove che adesso che sia stazione ferroviaria. Sì, la vicina, sono andata anch'io a vedere. Ecco. Sì. No, ma non su quella chiesa. Ah no? No. E a porta su una chiesa che c'era vicino, dove che adesso c'è la stazione ferroviaria. E la chiesa c'era intitolata alla Madonna Annunziata. Ho capito. E ha stato un bel tocco sta santa. Cosa c'è che succede? Un bel tocco, diversi secoli è stata là. Non so come che veniva ricordata là. È anche se un periodo buio. Non che se. Cosa sta nel 1800, ora si passa qualche secoletto, cioè decide di fare la stazione ferroviaria. Chiamata Santa Lucia. E appunto, cosa c'è chi fa per fare la stazione? I butta su e accesa. Un esempio proprio del caso di Mala, che adesso naturalmente sembra che sia fatto solo oggi, ma se vede che c'è da lunga pezza che... Ascolta, dove che avevi da mettere questa povera figlia? Appunto. Avuto che brutto destino che ha avuto. Allora, i butta su e accesa dea, no? Santa Annunziata e Santa Lucia. E dove si chiama? Mettiamo adesso un'altra volta, c'è intanto di costruire questa stazione. Se non che nelle vicinanze che c'era, si era formati piccoli oratori, conventini piccoli delle suore. E c'era, diremo, avversarie delle suore, come ordine. Sì. E tutte e due aveva. Dammi a me, finché ha fatto dei che baruffe da non credere. Tanto se è vero che ha toccato intervenire anche... Il vescovo. Tutto quanto per mettere le posto, perché ciò andava di pesante, però, addirittura e botte. Se però anche le suore facevano la baruffa. Sì. E difatti c'è stato un certo momento che il re Giuse che domandava che venisse a segnare vicino a Cesa di Santa Lucia, insieme a una casa col pompio, un sacco di storie, e preghiera si veniva accolta, e difatti è stata affidata alle suore di Santa Lucia gli anni dintorni. Gli anni dintorni non si dà bene, finché dopo ha deciso di passarla dove che è adesso e ha chiesa ancora. Ma allora c'è un ordine delle suore di Santa Lucia? No, qui c'era l'ordine dei suore di Sant'Agostino, Maria, sì. E ha tasi che ha posto in tanti fare stazione, e sta santa e viene trasferita nella vicina chiesa di San Geremia, che ciappa il nome anche di Santa Lucia. E finalmente sta povera figlia trova una piantina di requie. Ma quando è morta? Prima del 1000, vero? 300. Nel 300? 300 e qualcosa, sì. Ma insomma... Nel 303. Diciamo che, vabbè, ci sarà anche della leggenda, ma c'è anche della verità, sennò non sarebbe ancora in auge. No, sta attenta, è la leggenda, sì, quella di oggi, di tutte quelle robe, però cioè, è storia severa, perché se sto Pascasio si era portata via da Siracusa per l'invasione degli arabi, li era portata a Costantinopoli, dove che c'era... E Cese grande di tutti questi santi, di questi cristiani, e anche c'era anche l'invasione di Saraceni. E ora torno a portarli in zio un'altra volta, perché tutti i santi che ne altri che abbiamo qua su Ecesi vengono tutti dall'Oriente. Dall'Oriente, certo, certo. Perché certo. Ora distruggevano, che c'era qui dell'Anticristo, i selvaggi, diremmo, cioè, quelli che non vi credeva, e ora bruciava su, distruggeva, saccheggiava e buttava via tutti questi santi, queste robe. Del resto anche Gesù proviene dall'Oriente. Comunque ormai, Franca, siamo vicini a Natale. E voi a Venezia come passate il Natale così? Beh, il Natale lo passiamo in famiglia praticamente, perché per me Natale è la festa della famiglia. Sì, anche per me. Io sì. Ho sempre passato con la mia famiglia, non sono mai andata fuori, io sono sempre venuto a casa mia, siamo tutti insieme, San Stefano, Natale. Anno non mi toccherà andarmi in trasferta, perché qualche volta anch'io vado in trasferta quest'anno, quindi qualche volta bisogna andare anche in trasferta. Ascolta Franca, noi ci sentiamo in seguito. Sì. Ecco, allora la storia di Santa Lucia è conclusa. Sì. Noi ti ringraziamo vivamente perché hai fatto un excursus molto molto molto esplicativo. Sì, che sarei ancora tante altre robe da dire, perché la storia non finisce mai, te capisco. Comunque tutti gli anni penso che la gente vada in pellegrinaggio. Beh, a Santa... ma non so, sì, ma su un pellegrinaggio tranquillo, non so come Madonna di Saiuta. Per esempio da noi a Venezia, meno come visto processione con questa santa, per il fatto che a Venezia i ponti. Ah, ho capito. Non, cioè non puoi portare il corpo, perché anche se è proprio la mummia. Su altre città ha fatto una statua, ha simulato come se una statua. Sì, sì, sì. Qua che questa bamboetta che sarà anche 1,60 m, è piccola. Chissà, forse era piccolina proprio. È piccola, sì, sì, perché cioè, i siciliani che a volte era piccola e non arrivava oltre 1,5 m, 1,60 m, neanche 60. Tu cosa dici Antonio? Adesso come sono le siciliane? Ma diciamo che c'è stata una trasformazione radicale, insomma, quindi non c'è più modo di fare un paragone. No, beh, tra adesso, prima. Adesso no, ma praticamente i tacchi alti non li portava. Certo, certo. Ti ha capito. È un altro tempo. Poi era una robetta piccola, era una fantuina, era giovane, ti ha capito. E il fatto di oggi, appunto, che ha divelto sti oggi, è una rappresentazione dei pittori che ha voluto simboleggiare che abbia voluto cavarsi via per non vedere l'orrore del martirio. Del martirio, senso, ma non è vero, insomma. Certamente. Che, perché ella sarebbe morta, diciamo, sgossata. Sì, difatti. Ho sentito. Va bene, Frank, noi ti facciamo tanti, tanti auguri in anticipo di buone feste. Anche da parte mia. Sai che noi ci sentiremo. Sì, va bene, vi auguro una buona domenica, ormai è finita, vi auguro una buona settimana. E una buona Santa Lucia per martedì. E buona Santa Lucia. Ciao a tutti, grazie Franca. Allora ringraziamo ancora la Franca per la sua bella esposizione di questa Santa Lucia. Tu credi, cioè sei devoto a Santa Lucia? Beh, naturalmente, come tutti i buoni cristiani, certamente. No, perché ognuno di noi ha un santo. Certo, solo che occorre non trascendere naturalmente con anche perché si va, qui ci sono materiali immensi tra fede, tra cultura, tra leggende, eccetera, eccetera. Po', quindi occorre saper discernere naturalmente. Però è molto simpatico sentire raccontare queste cose. Certo. Cose che in sostanza sono avvenute, pensa quanti anni fa nel 300. Pensa come si viveva quel tempo. Ma io, sai, sono molto molto curiosa della storia passata. Più passata è e più mi interessa. Bene, ci ascoltiamo allora la terza canzone, che è cantata dai Pooh ed è Uomini Soli. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col topo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel va e vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tardi, perché ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Si è detto che ci sei, ti hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Sete d'avventura, perché han studiato da prete o per vent'anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi. Ma Dio delle città, tu ci sei, i problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo, e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. Eccoci di nuovo in studio. Allora Antonio, sabato scorso c'è stata la premiazione, sai che fanno ogni anno un concorso di poesia di tutti i circoli della zona di Treviso, insomma i circoli degli ospedalieri, dei bancari. Certo, è un'attenzione poetica. Un'attenzione diciamo, tra poetica, circoli. Sì, beh. E ha vinto il secondo premio una signora che è stata ospite, non so se te la ricordi, anche l'anno scorso, che aveva vinto il premio con la poesia della nonna, parlava della nonna, sì. Laura Crotti. Sì, sì, esatto. E così, siccome sai, sinceramente la poesia dell'anno scorso mi aveva tanto commosso, e quest'anno vorrei leggere questa sua poesia arrivata seconda, ed è intitolata Incanto. Danza la vela su punte d'argento lì all'orizzonte, elegante, sinuosa, flessuosa, occhieggia invitante, suggerisce pensieri, promette misteri. In mezzo a tanto tripudio di azzurro, offende lo sguardo lo scoglio che affiora lontano. Sopra due cormorani neri immobili. Osservano attenti la danza lì all'orizzonte. Plana senza rumore un gabbiano, si lascia cullare dall'onda tranquilla, cede all'incanto e più non ode il grido di chi lo richiama in cielo a volare. In un solo istante, in un battito d'ali, nel tuffo improvviso dei due cormorani, mentre si chiude il sipario lì all'orizzonte, si dissolve l'incanto e di tanta divina bellezza rimane solo il ricordo. Questa è stata scritta in maggio del 2011 a Parenzo, molto probabilmente si è ispirata è fortemente alla... evocativa del luogo, sì, del luogo. Sì, sì, certo. Comunque bella poesia. Bella. Adesso Antonio, è tutto tuo il microfono. Niente, io traggo sempre delle perle così di saggezza, di ricordo, eccetera, da Gianfranco Siega, Par modo de dir, che è un compendio di storie, leggende, aneddoti e curiosità veneziane e non solo. A bagnomaria. Il modo indica, per traslato metaforico, l'essere accaldati tanto da sciogliersi in sudore, quasi un sentirsi immersi in acqua tiepida. A bagnomaria è uno dei molteplici modi di cuocere o di riscaldare i cibi, in questo caso mettendoli dentro un recipiente immerso in un altro contenente acqua alla temperatura voluta. Questo metodo di cottura è mutuato da un antico procedimento alchemico giuntoci dalla Spagna moresca. L'alchimista aveva la scelta fra due vie operative, quella secca e quella umida. La prima a fuoco vivo e la seconda attraverso la via umida, a bagnomaria, appunto, che alcuni vorrebbero addirittura far risalire le pratiche magiche della leggendaria Maria l'Ebrea, sorella di Mosè e di Aronne. Nota: la prima traduzione latina di un testo alchemico arabo, il libro della composizione di alchimia, è dovuta a Roberto di Chester, febbraio 1144. Dalla tradizione alchemica ci sono giunti molti termini, quali alchimia, chimica, elixir, elisir, alambic, alambicco e alcool, polvere finissima, passato poi a significare ogni tipo di essenza volatile. Al vocabolo italiano alcol corrisponde il veneziano spirito. Ah, spirito. Spirito, esattamente, il veneziano. Chissà perché da alcol... hanno tratto la parola spirito. Sarebbe interessante andare alla ricerca, ma chiaramente sono cose che attengono alla linguistica. Molto probabilmente perché l'alcol ti dà spirito. Ma probabilmente sì, sì. C'è sempre, sicuramente nulla capita mai per caso. E anche l'origine delle parole è dovuta o a trasformazioni o a eventi particolari o cose, certo, di questo tipo. Certo. Allora, vuoi che ascoltiamo una canzone? Un'altra intanto? Canzone direi, sì. Sì, senz'altro. Va bene, allora ascoltiamo. Sì, allora... Fra due giorni è Santa Lucia, abbiamo parlato tanto di Santa Lucia e non si poteva far altro che ascoltarci, cantata da Achille Togliani, Solo per te Lucia. Menestrello d'amore, piccola bimba del cuore, io vorrei nell'estasi sospirar china ai tuoi piedi. Sol per te, solo per te, la canzone mia, come in un sogno di passione, tu sei l'eterna mia visione. Che mi tormenta il cuore, e nel mio sogno vivo per te, sol per te, Lucia. Brilla una stella lassù, ma più lucente sei tu, io ti vedo splendere, se nel cielo stella non vedo. arriverà sol per te, solo per te, Lucia. La canzone mia, come in un sogno di passione, tu sei l'eterna mia visione, una visione che mi tormenta il cuore, nel mio sogno vivo per te, sol per te. Ed eccoci di ritorno in studio. Una precisazione per i puristi, diciamo, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato è La canzone dell'amore, se non ricordo male. Sì, sì, dopo, per farla conoscere meglio, certo, diciamo, solo certo. Per te, Lucia. E allora, niente, ritorniamo a Gianfranco Siega e Par modo de dir con un paio di così... come dire, brani dove c'è un po' di dialetto che io cercherò di rendere al meglio, pur non essendo veneziano. Aver buona creanza. Comportarsi in modo tale da ottenere buona credenza, cioè buona credibilità da parte del prossimo. Le regole della buona creanza sono molto semplici, le riportiamo così come furono insegnate ai nostri nonni. Non dir mai voggio, ma domandar prima per piacere e dopo ricordarsi di dir sempre grazie. Saudar sempre tutti per la strada e non fermarsi con nessun, massime col carboner. Coparla i grandi, i piccoli gada star siti. A toia se sta sentai, non se puse i comi de sora e non se mette i pie sui tressi dei careghe. Co se magna non se parla. E il piron se fatto per magnar e no per farghe in passo a tua cugina Pipe. Coi te chiama ti gada a rispondere sempre comandi e no a. Ah, si no i garazon a dirte che te si un aseno. Meglio morsegarsi a lingua che dir una busia. Meglio morti che in prison. Ascoltar sempre la raccomandazione del papà e della mamma. Comportarsi sempre ben, sino si va a finire sul gazzettin. Cotiva fuori della porta di casa, fate sempre il segno della croce. E coti passi per una chiesa, va drento a torte a perdonanza. E questa è, molto simpatica. Ci sono delle cose... Sì, sì, decisamente. E quest'altro è anche più simpatico, uh-huh. Ed è chi la vuol calda, chi la vuol fredda. I latini direbbero tot capita, tot sentenzia. Un padre e un figlio, caricati su un mulo due fastelli di legna, si misero un giorno in viaggio. Cammina che ti cammina, intanto che procedevano lungo la strada, sentirono dire, però con una bestia che i gà, i podari anche a montarghe da sola e farsi portare. Seguirono il consiglio. Il vecchio padre montò in sella e procedettero lungo la strada. Ma altri, subito vedendoli, commentarono: ma guarda che il vecchio, lui come un patriarca, che il povero giovine che tocca farsela tutta a pie. Si scambiarono allora di posto, il vecchio a piedi e il figlio a cavallo, ma la gente sdegnata diceva: però i vecchi che lavorano a vita che tocca andare a pie, e i giovani che ha gambe salde va a cavallo. Che tempi, che tempi! Non sapendo cosa fare, montarono in sella ambedue e la gente impietosita, povera bestia, con quel popò de peso che tocca portar neanche un fiato di misericordia. Liberarono allora il mulo dal basto, si caricarono le due fascine di legna sulle spalle e andarono a piedi. Ed ancora, chi li vedeva subito a criticare. Sammare, ara chi doia, bisogna essere proprio un trio de succa per andare a pie coi pesi in spaia. Quando che se gana bestia chi potaria far manco fatica? Non se ne andava proprio fuori. Restava una cosa sola da fare. E disperata, liberarsi del mulo. Così fecero e lo gettarono da un ponte. Ma la gente che li vedeva passare si chiedeva: ma come mai? Nuiga bestia chi doia, magari un muro, per portare che do fassine de legno. ma è vero, la gente è fatta così, eh? Effettivamente, beh, ti ricordi di Antoine, no? Se appunto, sei bravo ti tirano le pietre, quindi, effettivamente non cambia molto, cambiano i tempi, cambiano le stagioni, le usanze eccetera, però la gente ha sempre quello qualcosa di da criticare, dire. Certo, evidentemente, certo. Forse perché non ne hanno abbastanza da pensare ai propri, insomma, diciamo. Sì, ma c'è gente proprio che vive sulla nella critica. Beh, la bottega del caffè, ricordo naturalmente Goldoni, eccetera, ma poi altre, anche Baruffe e Ciosotte. Non so se anche il Ventaglio, te la ricordi, ma tutte ste comari che chiacchierano, che ti guardano dall'alto al basso. Eppure è una moda. È un divertimento, cioè, diciamo. Ecco, è una moda certo di modo. Tanti anni fa. Esattamente. Penso che ci sia sempre esistita. L'impressione è quella. Adesso invece forse un po' meno, perché la gente magari in città sta un po' più per conto proprio. Sì, certamente. Bene, allora ci ascoltiamo l'ultima canzone, cantata da Julio Iglesias, ed è, non so se la conosci, si è intitolata Bimba. Ma sentiamo. Bimba, che un giorno ti svegli diversa da ieri, con l'ansia di quel che tu sarai. Bimba, che un giorno sei certa che ormai è giunta l'ora di andare da sola. Aspetta, aspetta, ti manca solo un giorno per camminare. Aspetta, aspetta, ti manca solo un giorno per camminare. Bimba, che un giorno stai nuda davanti allo specchio e scopri su te cose nuove. Bimba, che un giorno, leggendo parole d'amore, ne hai desiderio e vergogna. Aspetta, aspetta, ti manca solo un giorno per camminare. Aspetta, aspetta, ti manca solo un giorno per camminare. Bimba, che un giorno nell'ombra di casa ti toccano le labbra e tremi. Bimba, che un giorno non freni più il fuoco che hai dentro e ti arrendi al primo che arriva. Aspetta, aspetta, ti manca solo un giorno per camminare. Aspetta, aspetta, ti manca solo un giorno per camminare. Oh Antonio, siamo arrivati alla fine della strada. Anche quest'oggi è volata. Anche stasera, siamo arrivati. Sì. Beh, mi dispiace perché è bello così. No, c'è sempre quell'aspettativa ogni sera di rimandi alla prossima con almeno noi speriamo che anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici abbiano questa sensazione. Esatto. Beh, io di qualche persona so che ci aspettano. E quindi intanto li saluto con molto molto affetto, sia Bianca, Francesco e sia anche la Franca con la sua amica Beatrice. Anche da parte mia, naturalmente. Sì, ecco. Allora, Antonio, niente, salutiamo noi non tutti. Ci resta altro che dire buonanotte. E anch'io dico buonanotte con te e anche con il nostro regista Eddie Daici. Ciao ciao! Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.